bomba senza radiali dalla Sirio. E niente, con un Superstar 3009. Vabbè, noi siamo molto vicini, non è che possiamo fare probabilmente da lontano vengono meglio. Positivo, no, vabbè, questo qua lo uso ogni tanto per farlo girare, dai. Riprendi Gianni. Ma io già sono lontano, il segnale si è per 9.3. Sì, no, già escono bene serrati. Beh, ce l'hai anche tu, Ale, ce l'hai anche tu, quindi già lo sai com'è. E quindi già la restituzione al mittente. E tu hai contattato il venditore? No, perché me lo sta facendo un amico, il piacere di ordinarmela. E ha mandato anche i soldi, tutto quanto, capito? Però il venditore in Germania ci ha detto che ci metteva qualche giorno in più, perché dalla Germania giustamente ci mette di più. Abbiamo aspettato un paio di giorni in più e non arrivava, e poi è andato a guardare la tracciabilità e c'è scritto praticamente che la stanno rimandando al mittente. Solo che adesso è andato a vedere se c'era stata la consegna e non c'è stata nessuna consegna, capito, a domicilio. Quell'antenna non ha passato il controllo doganale. Cosa? Quell'antenna non ha passato il controllo doganale. Ah, boh. Non so cosa dirti. Però mi pare che era già in Italia, perché era... Sì, è passata perché era da Bartolini a Porto Torres. Era da Bartolini a Porto Torres. Ma è ancora da Bartolini a Porto Torres quell'antenna? Non lo so. So che da Bartolino a Porto Torres è che la stanno rinviando al coso, al mittente. Gianni, quell'antenna lì, se tu vai domani mattina a trovarsi, va proprio a Porto Torres. Ma la documentazione ce l'ha tutta un amico, capito? Non ce l'ho io, la documentazione ce l'ha tutta tu. Ho capito, però tu le prendi e ti fa una delegata e te la ritiri, ma anche se ti dà il coso te la ritiri già. È ancora lì, non la mandano loro. Quando è oggi te la comprate oggi. E allora se tu vai domani quell'antenna te la prendi. Ma perché la stanno rispedendo? Non lo capisco. La stanno rispedendo perché può darsi che non ha passato magari i controlli, cioè non ha passato i controlli, magari sono venuti a consegnare, il corriere non ha fatto il suo dovere e l'ha mandata indietro. Mi sembra cosa succede a questi stronzi, e non ce la fanno a venire a casa tua, no? Non ce la fanno a passare e la riportano indietro. Mi segui come funziona la questione? Sì, ma ti devono lasciare l'avviso, se no non è così. Ma Bartolini, ma per carità già, ma lascia perdere Gianni, che non lasciano proprio niente loro, che sono una massa di miserabili, anche loro. Tutti, guarda, forse uno dei migliori è HDL, anzi il migliore è HDL, perché proprio Bartolini e Sevilla sono i peggiori, TNT sono i peggiori. Possiamo andare a vedere. Sì, ti conviene scendere a vedere, dici che c'è una cosa interessata a questo qua, e che la devi ritirare, basta, te la danno. Provarsi che sia già, che sia ancora lì, che magari la mandano ogni dimmi, che parta. Comunque, scusa Franco della presa, vai, riprendi. No, tranquillo, no, qualche problema per quello. Perché non ci provi già a scendere a vedere se c'è? Ci posso anche provare, ma prima vedo pulire i documenti per ritirarla. Se non c'è la documentazione non te la dà. È chiaro che te l'ha ordinata e vedi un po' di scenderci prima di lunedì. Magari, come sta dicendo Gabino, lunedì la spedisco. Adesso nella tracciabilità c'è scritto in consegna, perché no, c'è scritto praticamente in viaggio. Cazzo. Guarda, a me una volta ho ordinato una cosa per casa, così, ed era sempre in consegna, pagare due settimane in consegna. Alla fine non me l'hanno mai consegnato. E allora ho chiamato e ho avuto l'imbocco, ho avuto della situazione. Perché non era possibile che è in consegna e non me la consegni mai. Non ci sono mai venuti a consegnarla. Perché lavorano così, c'è ragione Calvino. Lavorano un po' come vogliono loro, capito? Dovrebbero passare anche due volte, invece non ci passano. Io quando non trovavo gente, il periodo di Natale specialmente, che avevo i cesti natalizi, se non trovavo gente ce ne passavo due, tre volte, quattro volte, anche cinque. Perché avevo le consegne a Sassari che non è che li trovavi tutti, il periodo di Natale molta gente va fuori. Eh sì, quello è giusto, però questi non si passano, perché se passano mi lasciano un bigliettino alle poste, al corpo della cassetta delle poste, mi lasciano, sono passato che l'ho trovato, andare a ritirarlo, mi possono dire anche andare a ritirarlo al centro, però quelli non ci passano neanche, è come ha detto Gavino, quelli. Quando non hanno tempo di passarci, non ci passano, e poi là dichiarano alla centrale, dichiarano che sono passate e non hanno trovato nessuno. E chi lo sa cosa hanno fatto? Qualche cazzata l'hanno fatta sicuramente, ma la roba è già pagata, capito? E quello è il problema. Avanti, capito? Perché già, io lo so che loro prendono. Non lasciano neanche bigliettini, a volte, scusate, che sono dei cialtroni, hanno tanto, ma non tanto il corriere, perché il corriere ne ha colpa e non colpa, la colpa non ce l'ha, ma fino a un certo punto, perché il corriere ha 150 consegne in un giorno e logicamente non ce la fa a fare tutto, però devono essere loro a prendere, a comunicare, anche vogliono le mie, vogliono tutto, almeno quando la sera non ce la fanno, no? Scusate, che rientra il corriere diciamo in sede e dice guarda, io ho questa roba che non sono riuscito a consegnare, almeno mandare una mail a dire il corriere non è riuscito a consegnare questa merce, riproveremo domani, oppure è pregato di recarsi verso la nostra sede per recuperare il suo pacco, basta. Allora uno si organizza, va e se la ritira, ma non lasciare le persone così allo sbando, perché Gianni tu hai pagato, cosa ne so, 50 euro, lui ha pagato 40 euro, Franco ha pagato 60 euro. Sono soldini, perché uno magari fa sacrificio per comprarsi una cosa, dice 2 euro al giorno, non mi prendo il caffè, arrivo a questa cifra e mi compro quello che mi piace. E queste persone qua, questi bisognisti, questi miserabili, prendono e fanno quello che vogliono, non è così, perché ci vorrebbe, non lo so cosa, guarda, quando uno fa sacrifici per comprare una cosa che si conserva subito, non fa mancare niente alla famiglia, si mette da parte anche 50 centesimi e poi vieni trattato così per colpa dei corrieri, che sono dei miserabili cialtroni, ripeto, bisogna accastagnarli a verbali, proprio toccarli la tasca, capito? Tu non consegni un pacco di valore di 40 euro, ne paghi 30 di verbale. Voglio vedere se cominciano ad addebitarli quei 50, 60, 200 euro al mese, la prossima volta vedrai che passano, fidati. E se no quello del tavolino, cazzo, mi ha chiesto se c'era un tavolino, che cosa c'era dentro. Ma ha chiesto un corriere, mira che cosa c'era dentro, un tavolino col vetro, perché? No, così lo sto chiedendo. Poi quando ho firmato la bolletta, mettiamo con riserva, non si sa mai che ci sia qualcosa di rotto. Lui lo sapeva già che l'aveva fasciato. E beh, a chi lo usa mia, perché sono io, dico tu fra pellet, inforcate col muletto, capito? Inforcate col muletto, messo e rifatto il pacco e la tuffa rotta dentro per incolpare il secondo trasportatore, invece no, perché chi ha fatto il viaggio è un po' attento e ha preso e ha detto no, cioè almeno nascondete il cartone che tutto quanto è rotto, apri questa tuffa ed era inforcata, gliel'avrebbero addebitata, capito fra come funziona la situazione? Questi qua sono della massa di miserabili. Sì, ma l'ho vista, guarda, li hanno fatti vedere anche in televisione questa gente qua, che smistano la roba, i pacchi, queste cose qua, e le buttano, le lanciano da lontano, non pensano che ci sia una cosa da fare danno dentro, una cosa del genere. E purtroppo questa gente la zona così, dicono, è stata una roba mia, non me la fatti lunga, e tiro. Però non funziona così, perché la gente paga l'animaccia dei soldi e vuole la roba come si deve, in data come l'ha ordinata. Sì, ebbe, per forza, ripeto, una persona, io nel mio piccolo faccio sacrifici come tutti, perché i soldi non ci regalerà nessuno. Facciamo i nostri sacrifici e ci compriamo le cose che più ci piacciono, ogni mese, ogni due mesi, prendi, ti puoi permettere di spendere 50-60 euro, ma lo sai tu, lo sappiamo che cosa faccio, invece andare al bar a prenderci il caffè, non ce ne restiamo con il caffè, con l'euro ce lo mettiamo in tasca, magari in due mesi recuperi 60 euro, che sono 30 giorni, 1 euro al giorno, e ti compri più o meno quello che ti piace. Però che poi questi soldi vengono buttati per colpa degli spedizionieri o dei corrieri, a me non mi va più bene, quindi no, anche bisogna smettere anche di comprare, o altrimenti compri quando arriva lo paghi. Però non sono tutti che spediscono così, e non è neanche colpa, e non ci deve neanche piangere il mittente, perché se io spedisco, no? E poi mi perdono il pacco, lo spedisco, me lo rompono, cioè non va bene. Io sono convinto che queste persone qua bisogna sanzionarle, e poi mi giane. E appunto, io comunque ho telefonato al venditore per il tavolino, mi ha detto guarda, me lo rimando indietro, ma mi deve fare la gabbia in legno come ce l'ha prima, e messo, anche se è rotto, diciamo deve essere fatto bene. E adesso vedo, se riesco a aggiustarlo io, me l'aggiusto io, se la prendere lui. Era tutto scollato, eccetera, ho preso il vila, l'ho tutto quanto ricastrato bene come doveva essere, ho comprato il vetro nuovo, 20 euro, e l'ho aggiustato. Sì. Ma è l'unica, perché dopo ti metti a fare di nuovo la spedizione e la paghi 100 euro, 150 euro, perché mi sembra la spedizione è il 30% del valore assicurata, è il 30%, il 20% del valore del pacco, della merce. Comunque la portante, visto che non si è più fatta sentire, deve essere non è voluta entrare. Abbiamo fatto la chiamata, non ho messo la portante in AVB, però visto che non è voluto entrare, magari ha cambiato idea. Riprendi Franco. La portante, e dov'è la portante? No, perché poco fa sentivamo delle portanti in AVB. Magari voleva entrare qualcuno, però non si è fatto sentire nessuno. Ah, beh. No, io non ho sentito niente, perché adesso usando l'altra là. Col Galax c'ho sempre lo squelch, c'ho tutto squelciato, per non sentire QRM, queste cose qua. Mentre con questo l'ho tutto squelciato. Lo squelch funziona solo in banda laterale. È positivo. Ma può darsi che magari abbia sbagliato, abbia messo la portante e si abbia dimenticato il buco attaccato. sbagliare un attimo, vai già, riprendi. Ah, ma non penso, perché l'ha fatto due o tre colpi e poi ha mollato. Sicuramente non stava magari misurando stazionari, roba del genere. Poi se è andato. Magari non ha sentito nessuno e nel momento che noi non stavamo parlando è entrato. Va bene, sì. Potrebbe anche essere. Va bene, comunque se vuoi rientrare siamo qua. E tu Fra, ma cosa c'è tu? La Mantova 1? No, c'ho la Turbo, la Mantova Turbo. Positivo, bella. Mi stavano vendendo un paio su Facebook, nuove, ancora imballate, 160 euro. No. Sì, 160 euro. Nuove, ancora imballate, comprate mai usate, ancora imballate, 160 euro l'una. 110, 115 si possono comprare. 115? Sì. Ma tu la turbo non la trovi più, Nigia. Lo so, ma costava così. Ho capito, costava così, però vai a tu adesso e trova un'antenna con quelle performance. Gianni, 140 l'ho pagata io, nuova. Sì, ma costava, secondo me la compri. Io 120 euro l'ho vista. Comunque, l'antenna lì ce ne sono tante che sono molto, molto precise a quella, anzi più forti di quella lì. Più o meno, io ti ripeto, già lo sai, io ce l'ho a Grazioli, diciamo che a materiali questa antenna che ho io è la signora delle antenne ai giorni di oggi, perché ha dei materiali assurdi, come guadagni e come coso, è uguale alla Mantova, è uguale, non c'è niente da, non, né più e né meno, però come manufatturiere, come questione manufatturiera, come qualità di prodotto, è molto superiore, perché alluminio di prima, è teflon buono, è acciaio, è una cosa molto particolare. Però, niente, magari la Mantova 1 può darsi che sia superiore, ma questa antenna qua costa nuova 225 euro, non 115, costa 225 euro. E vabbè, ma un'altra antenna, capi? Lo so. E la Grazioli è più o meno come quella mia, che c'ha la parte di sotto dove attacca il radiali, dove attacca il PN, tutto in acciaio, capito? In acciaio. E poi il resto è bella robusta lo stesso. Ma scherzi, sì, è tutto in acciaio. Tutto in acciaio. Riprendi, Franco. Ehi capo, guarda, quando io ho letto tutte le caratteristiche della Grazioli, la Grazioli è superiore alla Mantova Tutta, questa che c'ho io, è molto superiore. E anche lo spessore dell'antenna, dei tubi, è un po' più grossa, più resistente. E diciamo che se costa di più c'è un motivo, c'è, ed è molto migliore, ed è, diciamo, come antenna è più ben fatta, è più robusta e rende molto molto di più della Mantova 1. No, a resa sono uguali, non c'hanno, dicono di sì, però no, quello te lo posso garantire. A resa sono uguali, anzi forse la Mantova Turbo rende anche di più della Grazioli. Questa qua, quella Grazioli che uso io, quella che si dice poco fa, quella lì è tutta fatta, sì, diciamo, ha una qualità di prodotto, di... Sì, sono nuove quelle, hanno una qualità molto, molto superiore, però elettronicamente come cose sono uguali, come caratteristiche sono uguali. Ma io, a quello che ho letto, dovrebbe essere superiore, dovrebbe essere, poi se a fatti come stai dicendo tu, non lo so, perché io la relazione non l'ho mai avuta, però fanno la statistica di lettura sui deplan, io l'ho vista così, parlo solo vedendola così, poi certo che tu l'hai provata, la stai provando, ce l'hai, è evidente che lo sai più di me. Sì, io considero che ho avuto, quando ero a Portatore, se avevo la mantova turbo, ti ricordi già, avevo la mantova turbo e adesso la Grazioli. Questa qua è più mastodontica, la vedi che è più pesante, la senti, però io la mantova turbo mi sono trovato non alla grande, non di più, è un'antenna che si adatta a tutto. Io la mantova turbo gli davo 500 watt in AM e non mi ha mai volato a piedi, e a Portatore si ha preso 20, ha preso mezza latte, ha preso mai un problema, quindi io della mantova turbo ne posso parlare solo bene. Questa qua ce l'ho quanto? Ce l'ho quattro mesi, la sto provando e finora, grazie a Dio, tutto bene. Vediamo, posso fare la comparazione finale solo fra tre anni ti posso dire se è paia la mantova turbo o pigio. Per io la mantova turbo mi sono trovato solo posso parlare bene. Non c'è furia. Avanti Gianni. Allora, dovete sapere che la Grazioli la costruiscono due operai che lavoravano alla Mantova. Cosa hanno fatto questi operai? L'hanno perfezionata mettendoci del materiale più buono, mettendoci tutto in acciaio, bulloneria, tutta la roba in acciaio, e l'hanno fatta diventare un'antenna performante. Oltre che essere performante, però è anche un'antenna duratura, di quelle che hanno materiale buono, capito? E erano due operai della Mantova, poi la Mantova va chiusa e loro si sono messi insieme, capito? Lo stanno facendo con la Grazioli. Sì, già lo so Gianni, che è della stessa famiglia della Mantova, però vedremo un po', riprendi Franco. Allora, per fare una cosa, con questa Mantova, quello che non ho mai avuto con le altre antenne che ho avuto, tipo la Mantova 5, la Mantova 1, e via, con questa mi arrivano dai 10 agli 80 metri, mi arrivano a bomba qua, non so se è la posizione che ho io, non so per che cosa, però mi arrivano tutta a bomba, e con le altre antenne non mi arrivano, addirittura anche 6 metri che mi arrivano a bomba, tutte dai 9.10, 9.20, 9.30 mi arrivano tutti, mi arrivano, ma non so, non solo nel 27, ma in tutte le bande. Sì, anche io con la Grazioli attacco e ricevo tutto, io anche gli 80 metri li faccio benissimo, e ti posso anche dire che io, se voglio, ci parlo anche in 80 metri, 40-80 metri se voglio, io intanto c'ho l'accordato che vi riprendo e ci parlo, ma in 40-80 metri c'ho un etere di stazionari, cosa pensi? Io chissà cosa, è un'antenna che fa tutto. Per quello non bisogna dire nulla. Sì, è vero, la Mantova prende tutto, la Mantova loro vanno da 26 fino a 30, però fa tutto perché sono antenne fatte per essere fatte, Franco, sono antenne diciamo antenne eterne. E ti posso dire una cosa, anche le Sirio, se prendi una certa gamma vanno bene, anche le Sirio non sono male. Anche la mia prende tutto. Sì, Gabri, sì. Io sono convinto una cosa, se gli metto un buon accordatore, che me l'ho venduto, l'originale della Kevon me l'ho venduto, la P250. Se avrei avuto un accordatore buono, io penso che sarei entrato, anche in certe bande sarei entrato con la Mantova a parlare, perché sicuramente riesce a accordare. Certo che ci riesce a accordare, certo. Ma quello non sono problemi. Tu c'è. Gianni se non sbaglio adesso sto usando una LEM, confermi Gianni o mi sto sbagliando, non c'hai più la Game Master, tu c'hai la LEM interrogativo. Sì, c'ho la Super LEM, sì. La Game Master mi ha dato solo una brutta impressione di antenna, però non ho delle cose buone da dire di quell'antenna. L'unica cosa che c'aveva era che prendeva pochi splat, poco QRM e che c'aveva le stazionali sempre a uno. Tutto il resto è noia. Sì Gianni, l'ho letto che la Game Master non è questa grandissima antenna, l'ho letto. Ah, tu hai la Super LEM adesso, è vero, ma questa cosa me ne ho dimenticato. La Super LEM, anche di quella parlano bene, ed è un'antenna anche robusta. Adesso tu quanti anni ce l'hai quella? No, Gabi, ce l'ho da poco. Il giorno 13 dicembre dell'anno scorso l'ho messa. Era il giorno di Santa Lucia. Oh no, vanno bene quelle antenne già. È fatta bene anche la LEM, Fatta bene anche la LEM. Io della LEM non sono soddisfatto del discone. Della discona che ho io delle U e delle U, del ricevitore, non sono soddisfatto. Lo sai perché? Perché quell'antenna io gli ho messo dove aggancia, diciamo, la parte che va in verticale della discona, non quella, non i radiali, la verticale. L'ho portato un pochino in giù, gli ho messo 1,60 di alluminio, 1,60 di alluminio dello stesso, diciamo, che incastrava dentro. Adesso io quell'antenna lì l'ho migliorata dell'80%, mi segui? Ma migliorata veramente. Io ti tolgo i radiali, quella verticale che vi ho fatto, mi arriva un VHF, mi arriva un segnale 9. Con quella verticale lì mi arrivano fondo scala, tutti in fondo scala, tutto quello che prendo è fondo scala, non metto ma fondo scala, tutto. Sono, cioè, per 2 euro di alluminio, questa gente si fa vedere. Io non ho capito, una casa costruttrice usi. Oh, vabbè, hai fatto la modifica, è cambiato quello centrale. Io in pratica dove vai a inserire il disco, dove vai a inserire il disco superiore di lì, mi ho avvitato che l'ho messo proprio ad appoggiare alla base e rimane un pezzettino fuori di 3-4 centimetri. Lì gli ho aggiunto 1,60 di alluminio, 1,60, ti mando le foto domani, 1,60 di tubicino di alluminio comprato da Bricoman, legato all'esterno e le vi è passato dentro una piccola, diciamo, una punta per renderlo, dai, per fargli fare bene i contatti. È un'altra antenna già, è un'altra antenna. Bravo Gavino, bisogna sperimentare, se no non riuscirai mai a fare le cose come vuoi. E posso anche trasmettere, perché con quella lì ho contato le stazionali, cioè 1,3, fino a 1,5 posso trasmettere. Prima non potevo trasmettere perché c'era 1,7, 1,8, adesso sono 1,3. Adesso quando mai della una casa costruttrice, mi faccio questa domanda, una casa degli ingegneri, delle persone, prendono e fanno questo tipo di errori. Tu mi dirai perché se mettono quell'alluminio potresti perdere segnale in alte frequenze, e ci sta, ci potrei anche credere, però se provato da me, che io non sono nessuno, io sono un confrontatore, sono un ciarlatano, provato da me che non sono nessuno, io fatta la comparazione dei segnali da prima a dopo, addirittura io adesso prima in 27 questa discona qua era sorda, adesso ricevo anche in 27 bene come un'antenna verticale normale, con qualche segnale o meno, però ricevo. Prima non se ne parlava, non se ne parlava niente, cioè, non sono nessuno, questi sono ingegneri e si fanno vedere per 2 euro, ma invece di farla pagare 80 euro farà pagare 90, cioè 95, però rendila valida. Un attimo, capisci, mi allontano un attimino, vado giù in bagno. Sì, già siamo qua, ma riprendi Gianni. Sono d'accordo con te, Gabi. sono d'accordo con te. Io preferisco pagare qualcosa in più, però che mi diano la cosa che sia funzionante, non che poi ci debba mettere le mani io per farla funzionare meglio. Hai ragione. Vabbè. Anche gli ingegneri a volte non sono molto illuminati come mente. Ma secondo me, guarda, perché loro non mettono neanche manuali di montaggio, si mettono manuali di montaggio di fronte a una montazza, però voglio fare un'altra prova io, anzi già, voglio provare a regolarli, a farli i radiali dei fianchi, quelli che vanno in verticale, a farli un pochino più lunghi, almeno una quarantina di centimetri più lunghi, perché secondo me recupera ancora qualcosa di più. Però ho lasciarmene 4 corti e 4 lunghi, perché però fagli il doppio, mi segui, o il doppio o un quarto, perché in 75 cm la VHF recupera, mi segui, quindi fagli 40 e 40, 5 entra dentro, e fagliene 4 da 80 e 4 da 40. Lasciare quel margine per accorciare, per accordarla e provarla così. Quella ormai me la gioco così l'antenna. Sì. E vabbè, poi sempre rimetterla com'era se non varrà ora, ecco. Sì, beh, non uso la luna nessuno, no? Mi prendo il tubicino e lui me lo faccio. Mi faccio la fretta tua e riprovo. Però se va meglio. Se va meglio te la godi. Sì, beh, quello ci puoi contare, però se va meglio uno dice caspita, no, vabbè, non funziona però così, non funziona così perché uno paga per avere la roba performante, non che sia una cosa eccezionale, perché si sa che i disconi si deve accontentare, è un meglio quello che niente, però non la paghi 20 euro, la paghi 80 euro. Se va meglio ti metti davanti allo specchio e dici capi, non dovevi fare quello che stai facendo, dovevi fare l'ingegnere. Sì, ingegnere. Giulia, per carità. La cosa lo fa fare la forza della Maragana, perché non ti va giù, spesso i soldi e l'antenna non serve. Allora cerchi tutte le soluzioni per farla andare, è quello secondo me che ti fa venire l'inventiva. Non sopporti che hai speso 80 euro per un'antenna che non serve, allora tutti noi cerchi di recuperarla anche mettendo i fili di 50 metri. Infatti, cioè è così. No, io la leva sono soddisfatto, tutta la parte che si arrugginiva nella mantova turbo specialmente. Io ho avuto la mantova 5, però la mantova turbo mai. Si arrugginiva la parte dove si praticamente attaccava il piede, con la piastra che c'è. Quella lì c'era tutta l'acciaio lì. Sì, Franco, ti ho copiato, è entrata anche Franco, già. Sì, vabbè. Gianni, ma era anche ora di fare un passo di qualità tutti quanti, cioè come puoi fare una base dove vanno i radiali, dove un'antenna che tocca sole, acqua e salsedine, perché se vuoi manca stasera, la salsedine arriva e noi non ce ne accorgiamo, però la salsedine solo quando cammina, anche a stasera arriva la salsedine, umidità, questo schifo che lasciano queste scie chimiche, questo alluminio che c'è nell'aria, tutto, quello è materiale corrosivo, ed era ora che tutti quanti avessero preso delle, diciamo che si sono rimboccati le maniche per venire anche, per prendere tutela anche del cliente, perché uno non può comprare un'antenna e dopo 10 anni deve buttarla via perché se l'ha mangiata dalle correnti galvaniche nell'alluminio. Ma stiamo scherzando, almeno in quel modo no. Sì, vabbè, lo stile lo puoi cambiare, i tubi, quello che vuoi, però almeno in basamento dei radiali non mi fare buttare via l'antenna, fammelo in acciaio come stanno facendo, e allora l'antenna te la posso pagare anche 20-30 euro in più, non mi interessa, però ho un prodotto di qualità. Riprendi Franco. Cazzo, guarda che capisci, i radiali miei della mantova adesso l'anno scorso nel 2022 sono tirata giù e ho visto che si stanno marcendo, si stanno quando li ho tolti fuori i radiali, stanno marcendo. Adesso quest'anno, quando l'estate l'ha riportato giù, e mi sa che mi tocca comprarli tutti i radiali nuovi e rimetterglieli, capito? Tutti i tubi nuovi e li faccio a misura e glieli rimetto, perché dopo tanti anni quelli lì si marciscono, perché è un alluminio normale come tutti gli altri, come la mantova, come la... Ma infatti io stavo pensando di metterglieli, se vanno bene, sempre che non ci sia il peso, pieni. Ma pieni provarsi a prenderti e ti creano molto peso sulla base, mi segui fra. Io invece avrei fatto una cosa, ne avrei messo 4 da 1,60 m, ma tu sono 5, quindi ne avrei messo 5 da 1,60 m, li avrei allungati. No, io non sono 5, sono 8. Scusa, 8. Io li avrei fatti più lunghi. Li avrei messo 8 da 1,60 m, perché quelli mi sembra sono 1,30 m, così. Non me lo ricordo quanti sono quelli lì. Non me lo ricordo. Veramente non li ho neanche misurati. Però non mi ricordo la lettura del TPA. Vabbè, basta guardare in internet e lo vedi. Perché ci sono un paio di conti da fare e per la lunghezza della 5 ottavi dovrebbe essere 1,60 m, non hanno certe misure, se le teorie non sono un pignone, come dice quello lì, non sono un pignone, dovrebbe essere 1,60 m. Ognuno dice la sua, e accettiamo anche quelle, però in base a degli studi si sono fatti, il radiale per una 50 dovrebbe essere 1,60 m. E allora io non ci avevo la mantova più 2, ci avevo la mantova 5, ho detto una fesseria, ci avevo la mantova 5 io, li prendi già. Anch'io mi ricordavo così, ma non ti ho detto nulla perché magari mi sbagliavo. Ed è quella che ho messo dal palazzo in casa tua, l'hai messa anche dove c'avevi il coso, dopo la moda. È positivo. Me era sfuggita questa roba. Sì, Franco, scusa, ti ho detto una fesseria. Non avevo la mantova su, avevo la mantova 5. Mi è andata sempre bene, a me. Prova questa cosa, se ti vuoi togliere un buco, ti ho detto. Sì, no, ma se quello che c'avevi sul circo, che aveva fatto a Torres, dove ero venuto io una volta, lì era la mantova 5 che avevi sotto. Positivo, è vero, è venuto, e io ho reservato un po' di cose. Sì, è rivenuto, Franco, è vero, sì, la mantova 5 era. Caspita, perché mi ricordavo la mantova turbo? Non lo so, comunque mantova 5. Lo stesso, caspita, era una signora antenna quella, magari aveva la di nuovo. La turbo ce l'aveva passata la tire. Capito, poi c'era tutta ruggirita e l'aveva buttata giù. Io la vi quella lì, la mantova 5, nuova, ce l'avevo neanche 2 mesi. Poi ho smesso di modulare, ne ho venduto tutto e l'ho regalata la mantova 5. No, se non funziona così. La mantova 5, io ho un ambasamento mantova 5. Ho un ambasamento che devo e lo regalo. Io la verità l'ho regalata a un amico, l'ho regalata. Per tenermela lì, fuori, allora ho fatto un regalo all'amico. Ho capito Franco, però anche l'amico a volte deve prendere, deve essere, capita fra. Allora, se tu a me mi regali un'antenna di due mesi nuova, io non posso accettare un regalo del genere. Cioè, per come sono fatto io non lo posso accettare un regalo, io posso accettare un regalo, ma posso accettare un rosmetro di quelli di età giga, nasco, tienitelo. Io non posso accettare un regalo di due mesi, che di un'antenna così che ha 2 mesi. essere da me a togliermi, ascolta, quanto è pagata l'antenna? 140 euro, ascolta, tieni 70 euro, la metà, tienili, perché dai, finita con l'antenna va con 10 anni, io lo regalo al tetto, però da voi, se l'antenna c'ha due mesi, io la metà di subito la do. Guarda, quando lo fanno la nostra ragazza, la nostra parola 5, quest'anno la nostra parola 120.000 lire, la nostra ragazza. Allora. E quindi, vabbè, almeno la metà volta la deve dare. Cioè, perché ripeto, anche nei 15 anni ci può fare, ma non anche nei 2 mesi. Sai, evitare così e regalarla, no. No. Queste cose non le accetto. Le prendi già. Aspetta. Guarda, è un amico che mi ha fatto un po' di favori anche, mi lascia perdere. Quello lo sapevo tu, non lo so. Io, anche se faccio favori una cosa del genere, cioè, mi sentirei un po' in colpa per come sono fatto io, fra. Scusa, però io sono fatto così. Riprendi Gianni. Vabbè, magari uno si arrangia, capito? Tra di loro si arrangia, loro gli fa un piacere, l'altro gli fa un regalo e la vita va avanti. Se la mano vuoi, se l'amicizia vuoi che ci mantenga, la mano che va, la sa che venga, lì c'è il problema. Se quando arrivi a casa al blocco i piedi, così è. Quando arrivi a casa al blocco i piedi, io vi arrivo di Franco. Così come ha detto Gianni, dai, già va bene, dai, poi non è quello il problema. I soldi quando vengono, non abbiamo problemi per quello, e poi il resto lo affronta, tutto il resto lo affronta, dicono. Solo resta è lui. Bravo. Sì, no, vabbè, ma tu guarda, fra, sono il primo a regalare le cose, però sono fatto male, io quando mi danno qualcosa che sono sempre coso a ricambiare, perché usi. Va bene. Mi allontano 5 minuti che devo prendere la mia... devo fare ora mia routine di cose notturne. Che mi stanno aspettando i ragazzi fuori per dargli da mangiare. Riprendo subito Gianni e Franco. Ok, riprendi già. Ehi, ragazzi, già siamo qua, dai, non c'è problema. Franco, quindi questo smitter non l'hai messo ancora a posto, questo gara? No, almeno ho cercato di portarglielo a quello lì. No, gli porto la radio e mi sa che gli faccio mettere anche le mie cose. Sì, è bravo di Borone. È bravo. Allora me l'ha aggiustato bene, visto? E non ha gazzata, sento che sta uscendo benissimo dalla radio. E infatti tu l'avevi data per la casa là. E fino alla fine mi avrà preso tanto. Mi faccio fare lo smitter e poi mi faccio parare tutto, dai, mi faccio parare. C'ho leggermente il coso della frequenza che devo toccare il coso per metterlo a 5 e metterlo in frequenza e mi faccio mettere in frequenza anche quello lì. E poi mi faccio vedere il coso della partenza, tutto. Gli dico che gli do le mie reto, mi porta anche le mie reto, se mi riesce a mettermelo dentro, me lo metto dentro. Al limite è comandato dall'asta che c'è, la fila che c'è dell'ecco. No, ma anche dietro puoi mettere, che non si vede. Capo, intanto quella dell'ecco io non la uso, l'ecco non mica la uso, ma se non si va nulla, buco. Ma non funziona. Sì che funziona, però la buffa. Almeno io lo uso questo del coso del Galaxy, no, però lo uso dal microfono. Capo, a me sai che l'accendo e te lo faccio sentire, come l'ecco. Sì, non è uscito. Ok, allora, eccolo qua. Com'è l'ecco qua? Per me, io l'ho sentito ma è una cagata. Non è vero. Secondo me non è questo qui l'ecco originale del Galaxy, ma è stato cambiato. Perché quello del Galaxy non è così. No, questo che c'aveva il Galaxy non l'ho mai toccato. Non l'ho mai portato neanche da un tic, mai. E allora lo porti bene tu, perché questo questo qui ha regolato bene, ecco, capito? Ecco, è regolato molto bene. Adesso ti faccio sentire il mio, vediamo un po' come esce. Aspetta che cerco la pila perché sono al buio. Guarda, guarda. Vedi, invece il tuo no, il tuo è tranquillo. Adesso com'è? È passato e migliorato. Perché bisogna parlare in pianta, bisogna parlare per pianta. Sì. No, no, va bene. Va bene. Poco fa come sei entrato, non si è capito niente. Avanti un cavo. Infatti, c'era un tempo che vendevano quegli eco della Daiwa, quelli che si attaccava al microfono, te lo ricordi? Sì, che me lo ricordo quelli. Certo, che io ho avuto quello, poi ne ho avuto anche un altro. Uno l'avevo dato a... ma non era della Daiwa però, non mi ricordo cosa era. L'avevo dato a Tino l'avevo dato uno. E l'avevo comprato, non mi piaceva. Ma sei uscito? Perché ho premuto male, ho detto ce l'aveva il gufo anche. Ok, adesso dovrei... Sì, sto uscendo. Col fischio? Sì, perché c'era una torre di accesa. Ho sentito Galaxy, se l'ho acceso l'altro. Ma è Galaxy, va meglio. Lo so, questo... dovevo farlo funzionare perché tanto troppo ferro già. Che apparato è? Mi si è notato della fine. Allora deve scaldare. Cazzo, infatti sono molto che non accendo più la radio. Se la accese oggi, non ho capito. Sono salito qua, stavo facendo che questo microfono mi sta volando dei problemi, mi sta volando in altre frequenze con lo Galaxy e allora ho dovuto montare e rifare. Avevo i fili invertiti. Invertiti? Cosa stai usando? Kenwood Call? MX-60. Non la sento qua la radio, non la sento limpida. Vabbè, dipende dalla mia modulazione, dai. Ma non è fatto, eh. Abbassa appena, forse è troppo alta o il macchinino oppure la potenza. Sì, è vero, ha scaldato un battuto, aspetta, la porto giù. Ok, com'è adesso? Vieni a vedere. Adesso va qui. Cazzo. 60, 50. Ok, adesso sono a 50. Vieni a vedere. Ho visto, va bene così. Adesso è più chiara. Prima rimaneva... non era chiara la radio, sporca. Sono rientrato. Cazzo. Me lo dovevi dire. Non me ne era accorto che era salito. Ero già 80, 90, quasi 100 modulati. Franco. Sì, Scusa Gianni, un secondo. Ma tu stai usando il 70 così? Sì. Ma hai l'alimentatore con i fumetter? Allora, c'è un alimentatore da 50 per. Aspetta, adesso si è acceso perché... vedete, stava scaldando. È bello grosso, eh. Ok. Prova ad abbassare ancora il watt. Abbassa ancora il watt, Fra. Facciamo una prova, abbassa ancora il watt. Portala a 20 watt, mi portando bianca. Ok, grazie. Ok, 20 watt portate bianca e 30 modulati. Gianni, com'è? È ancora più chiara. Vero? Sì. Quando lasi troppo si sporca la radio. Fra, con la radio di Rusia, 20 watt di portante bianca, 30 modulati, anche 25 non ho bene di portante bianca, se arrivi a 40, però non la sollevare più perché poi sporca la radio. Io avrei abbassato anche un pochino il mic game fra. No, sai cosa è? Questa radio io la uso su DTC anche su 27555 la uso. Faccio parlo un bel po' lì anche. Allora ho messo la potenza per quello che. Però fuori mi ascoltano bene, magari vicino è diverso. Lo sai cos'è fra? Quando tu con la radio hai vinto la potenza, quando tu hai vinto la potenza con la radio lì, va a saturare l'alimentazione. In pratica cosa succede? Ti va in picchi positivi l'alimentazione e quindi anche se la radio ti insegna che sta dando 50 watt di portante bianca e 100 modulati, in verità se tu la controlli con lo strumento sono sempre magari sì, il portante bianca tenerà 50-60, però in picchi negativi vai a modulare il ritmo. E l'alimentazione stesso, magari ti dà 15 ampere di assorbimento in portante bianca e poi in modulazione ti dà 9-10 ampere di assorbimento. Quelli sono picchi negativi che ti fanno ritorni anche di RF e ritorni in alimentazione che ti creano problemi allo stadio finali. Quindi secondo me poi ognuno fa quello che vuole, quella radio lì è bella così come sta uscendo adesso, con 20 watt, 15 watt di portante bianca, quando te ha 30 watt si è arrivato, anche se ti sentono magari invece di 9,20 arrivi il segnale 9, però la radio ti rimane bella e non la sforzi. Capo, sì, quello lo so, fermo un attimino, Allora, portata bianca 10 watt, 10, 20 modulati. Vedi, guarda, da me è quasi una telefonata, non so Gianni cosa ti può dire, riprendi Gianni e vedi un po' tu, dai un parere. Sì, anche qua è una bellissima radio, dai, chiara. Capo, solo che per uscire fuori bisogna aumentare la potenza. Ma è inutile aumentare la potenza, intanto guarda, vai a picchi negativi e sempre quei 30 watt ti dà, a te ti sembra che ti stai dando più watt, però se a picchi negativi magari sì, di portante bianca gli arrivi un po' più forte, però quando vai a modulare abbassi, perché c'hai i picchi negativi e ti dai 30 zinco, 30 zeti watt e non andiamo sul lupo, e non vai, anzi stai solo creando problemi alla radio, togliendo spugne e basta. Non vai da nessuna parte, mi sta arrivando sempre con quel watt, però sporchi. In questo modo gli arrivi con 15 watt di portante bianca, 30 modulati, oppure se ne vuoi anche 25, perché 25 già sono accettabili, e arrivi a 30-40 watt modulati, e mi sforzi il radio, arrivi uguale, qualche centesimo in meno, però la radio invece di durati 20 anni di durare 50. Capito fra qual è la differenza? Io il chilo di 4,50 ce l'ho così, ce l'ho a 15 watt di portata bianca e 37 modulati. Perché Gavi, poco fa a te stava arrivando a picchi negativi? No, io la verità non ti ho controllato poco fa. Allora, no, quando hai provato il C80, bugia, vero, lì mi sta arrivando a picchi positivi, picchi positivi. Poi, Franco, sta arrivando a picchi positivi, ma magari la radio sta dando tutti negativi, mi segue un'alimentazione. E quello che conta è anche l'alimentazione della radio. Perché magari lui sta uscendo, cosa ne so, con 50 watt, li può anche dare. Però in alimentazione c'è un picco negativo che non gli fa bene oltre ai finali. No, perché qua avevo avuto sempre picchi positivi. Poi l'alimentatore non ce l'ho digitale, ma ce l'ho analogico. E là non si muove neanche a tirare la balla. E io ho l'alimentatore stesso analogico, quindi quelli vecchi è un 60 ampere, però a me me lo segna perché è digitale lo strumento, capito? Ah, interometro digitale, quando va in negativo e quando aumento troppo il watt, se va in negativo la radio sta diciamo sta sforzando, magari ho 13 ampere di portante ambiente e poi i modulati scendono a 10, invece la porto a 6 ampere e mezzo di portante bianca e modulati sale anche a 13,8. Quindi sono tutti, io quando mi accorgo che la radio va a 13,8 e poi c'è da 13,6, allora abbasso ancora il carrier, perché altrimenti non va bene. E allo strumento mi accorgo che quando l'alimentazione mi dà tutti i negativi, mi dà anche lo strumento, è fermo. Capo, sì. No, vedi, questo io non l'ho mai sentito, vai, a dire la verità. Sì, vedo in una radio che ho, un VU, che quando schiaccio che sto parlando, si abbassa un bene la potenza degli amperaggi, ma per ora si abbassa, dei watt. Poi quando muore ritorna normale, per dire, se a 13,8 si abbassa a 13, si abbassa, sto parlando, però poi ritorna normale quando muore. Sì, sì, perché quelli sono, diciamo, sono picchi negativi in alimentazione. Se tu abbassi il wattaggio, vedrai che quei picchi diventano positivi. E trasformando i picchi positivi, il finale lavora bene perché tutta la potenza la sai, infatti è come che tu abbia onde stazionarie, perché tu quando sai bene che quando inizia a avere 1,3, 1,4 di onde stazionarie, la potenza invece di uscire di 20 watt la dimezzi, o addirittura invece di mezzarla la triplichi negativo, quindi invece di uscire con 20 watt esci con 6 watt. Invece quel modo lì esci con, per esempio, un 2 watt di portante bianca e poi modulati spari a 12-13. Stazionaria qua ce l'ho a zero, ce l'ho belle cose. No, anche io sono a zero, anche Gianni è a zero, perché mi accorgo Gianni che esce liscio e mi arriva sempre a picchi positivi Gianni qua da me, non ci sono problemi, però io dico sempre per non fare, perché io ho rovinato, io con il comodatore stavo modulando poco fa, l'ho rotto così, a picchi negativi in alimentazione, e ho bruciato lo stadio finale, quindi te lo sto dicendo per quello, perché a me è una cosa che mi ha spiegato, Bianconi, non me l'ha detto il primo che passa in strada e non ve l'ho neanche inventato io, quindi me l'ha spiegato Bianconi, mi ha detto quando tu in quelle, detto, quando lì nelle King, in qualsiasi HF, in qualsiasi apparato radiomatoriale, i picchi negativi, sta andando a creare danni alla radio, quindi sempre picchi positivi in alimentazione e in potenza. Quando arriva, lui mi ha detto, quando un HF esce sulla 27, esce su 15, 18 watt, lui è arrivato. Buono sapere. Io pensavo che aumentando, per dire, da 50 a 60, vabbè che un HF sotto i 10 non dovrebbe andare neanche sotto i 20, però così dicono. Dei radioamatori, non tutti, però dice che non dovrebbero andare sotto i 20-30 modulati. Il radioamatore può dire quello che vuole. Fra. A me mi ha detto il re dei tecnici, e poi vabbè, la sapete, tutti hanno la loro cosa, ma è così. Poi io, a me una cosa, quando me la dici, non mi esce l'orecchio, non mi entra l'orecchio, mi esce all'altro, l'ascolto e la provo, e infatti l'ho provata con un wattmeter, un rosmeter esterno, ed è così come mi ha detto lui, ed è così, perché io mi sono accorto che con 4,50, se gli do più di 20 watt di portante bianca, vado a wattaggio a picchi negativi, quindi io gli do 15 watt di pressione nella sonda e ne ho 37 mW, se così esco sempre, così va sempre bene. Riprendi Gianni. Dai, io riprendo e vi saluto, dai, che stasera sono proprio fuori fase, sono stanco. Dai, ci sentiamo, Gabi, ciao anche a te Franco e a tutti gli ascoltatori, quello che per me, ciao, ciao a tutti. Sì, ciao Gianni, ci sentiamo tutto alle prossime, dai. Sì, domani, già, domani se vuoi entrare io già sono dopo...